Cuore e denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Allora, direi di partire stamattina con la notizia più importante. Aspetta che intanto alzo un po' le cuffie perché qua sentivo poco. Con la notizia fondamentale della giornata. Non vorrei dirmelo. Subito inimicarmi i tuoi familiari, però purtroppo quest'anno abbiamo vinto il quinto scudetto consecutivo. E quindi a Piazza Affari i titoli della Juventus celebrano questa giornata con un rialzo non brillantissimo, ma insomma già i titoli erano andati abbastanza bene grazie al nuovo titolo conseguito. Allora, bene. E invece io come donna da cuore dico il cuore granata, forza, resistiamo. Va bene, andiamo alle altre notizie della nostra rassegna stampa. Titoli della Juventus a parte, oggi abbiamo una buona giornata per le borse europee. Abbiamo Milano che sta guadagnando 1,5 punti e stacca di netto la prestazione positiva degli altri indici. Parigi più 0,3, Francoforte più 0,3, Londra più 0,44%. C'è attesa per le decisioni che prenderà domani il FOMC, il Federal Open Market Committee, che è il braccio operativo della Banca Centrale Americana. A Piazza Affari oggi tutti in rialzo i titoli del settore bancario, che ieri erano stati un po' in difficoltà dopo l'allarme lanciato da Moody's sul rischio che comporta per ogni istituto la partecipazione al fondo di stabilizzazione bancaria Atlante. I migliori titoli sono UbiBanca, guadagna 5 punti, il Banco Popolare più 4, Unicredit più 3,79, Monte dei Paschi più 3,32%. Abbiamo sotto i riflettori anche il petrolio, che ieri è ritornato intorno ai $42.50 a New York, e stamattina recupera e consente anche un recupero per alcuni titoli del settore. Sotto i riflettori oggi abbiamo la trimestrale di Fiat che arriva in giornata. Mercati e risparmio vanno a braccetto, come sapete. Oggi peraltro vi segnalo la nuova uscita del corso di educazione finanziaria I tuoi soldi con il Sole 24 Ore, dedicata a ridurre i rischi con i fondi di investimento. Vengono analizzate in questo inserto le caratteristiche, le tipologie, i costi, le problematiche, la fiscalità in un paniere di alcune migliaia di fondi diversi. Viene probabilmente varato domani dal Consiglio dei Ministri, noi saremo subito pronte con cuore e denari ad affrontare l'argomento, il nuovo decreto legge sulle banche, quello che contiene il provvedimento sugli indennizzi finalmente per i 10.559 obbligazionisti subordinati delle quattro banche poste dal governo in procedura di risoluzione il novembre scorso. Probabilmente verrà adottato un doppio binario per i risarcimenti e lo spartiacque fra ristoro automatico e rimborso deciso da un arbitro sarà la data del 1 agosto 2013. Chi ha acquistato obbligazioni prima di quella data, ossia quando la Commissione europea aveva introdotto i principi preliminari del bail-in, potrà ottenere automaticamente il suo indennizzo, che sarà parametrato a reddito ed entità dell'investimento effettuato. Per i clienti invece che hanno sottoscritto obbligazioni dopo quella data, ribadisco 1 agosto 2013, sarà seguita invece la procedura dell'arbitrato. La gestione è affidata all'autorità anticorruzione presieduta da Raffaele Cantone. Concludendo con le notizie di denari, pensate che in Italia ci sono attualmente, senti qua Nicoletta che cifra, 13 miliardi di bollette che non sono state pagate per 56 miliardi di euro complessivi di insoluti e più di 40 miliardi di rate scadute. Sono cifre impressionanti, ci dobbiamo occupare anche di questa popolazione. A questo proposito si terrà giovedì prossimo 28 aprile presso la Sala della Regina della Camera dei Deputati il convegno Recuperare Credito, promosso dall'Osservatorio Imprese e Consumatori, autorità, associazione dei consumatori e grandi aziende di servizi e utilities e società di recupero crediti siederanno allo stesso tavolo confrontandosi sulle buone regole da applicare affinché le aziende possano recuperare i propri crediti legittimi, naturalmente però tutelando anche le famiglie e le persone che si trovano in situazioni di disagio economico. E passiamo alle notizie della salute. Siamo nel cuore della Settimana Mondiale ed Europea delle Vaccinazioni, promossa dall'Organizzazione Mondiale della Sanità e che proseguirà fino a sabato prossimo 30 aprile. Quest'anno la settimana ha come slogan Close the Gap, cioè colmare il divario di immunizzazione per garantire l'accesso universale ai vaccini in tutto il mondo. E per sottolineare l'importanza, l'OMS diffonde alcuni dati e ricorda che la vaccinazione evita dai 2 ai 3 milioni di morti ogni anno, ma circa 18 milioni di bambini non ricevono neanche le immunizzazioni basilari. Bambini metropolitani a rischio di congiuntivite per colpa dell'inquinamento, una ricerca condotta dal professor Nucci, direttore della clinica oculistica dell'ospedale San Giuseppe di Milano, ha dimostrato che lo smog può contribuire a infiammare la superficie delicata degli occhi dei bambini. La probabilità è quasi tripla in chi vive nelle aree urbane più inquinate. Per saperne di più e soprattutto per avere consigli su come affrontare il problema, trovate l'intervista al professor Nucci sulle pagine di Cuore Denari. E di occhi parleremo nel corso della puntata, in particolare di astigmatismo. Ci sono delle novità importanti e di una nuova tecnica per correggere la presbiopia. Per i vostri interventi il nostro numero verde è a vostra disposizione. Tra poco, intorno alle 11, il ministro della Salute Beatrice Lorenzin presenterà a Roma la nuova edizione degli Stati Generali della Ricerca Sanitaria. La manifestazione si svolgerà il 27 e il 28 aprile, sempre a Roma presso l'Auditorium del Massimo. Due giornate per fare il punto sullo stato della ricerca scientifica in campo medico nel nostro paese, alla presenza delle più alte cariche istituzionali, con la partecipazione di autorità accademiche, scientifiche, ricercatori, rappresentanti dei pazienti, del mondo industriale e della finanza. E a proposito di ricerca, parliamo di una nuova scoperta nello studio del microbiota. L'insieme dei microorganismi, sono alcuni miliardi, sono in prevalenza batteri, che sono localizzati nel tubo digerente, un tempo conosciute come microflora intestinale. Bene, uno studio del bambino Gesù ha descritto per la prima volta nella letteratura internazionale un modello di microbiota associato a fegato grasso e obesità. Medici e ricercatori dell'ospedale hanno scoperto che nell'intestino dei bambini obesi e con fegato grasso alcune famiglie di batteri sono troppo numerose se paragonate a quelle presenti in un soggetto sano, mentre altre sono troppo esigue. L'associazione tra alterazione della flora intestinale e obesità apre la strada alla creazione e alla prescrizione di probiotici personalizzati, con tutti i vantaggi annessi sia in termini di salute sia in termini di costi. Lo studio del bambino Gesù è pubblicato su una rivista, Pathology, e di prebiotici parleremo oggi nel corso della trasmissione. Dove si trovano, come si assumono, con quale modalità e per quanto tempo? Con noi il professor Lorenzo Morelli, uno dei massimi esperti in materia. Dai che ti porto a ballare, so che fa bene, ce ne siamo occupate tante volte anche a Cuore Denari. Sì, d'altronde siamo una splendida coppia, come ci scrive Ugo. Esatto. Una gobba che saresti tu e una granata esatto, che sono io. Nicola Stock, presidente della Task Force Argentina, buongiorno. Lei per quale squadra tifa? Naturalmente non per la vincente. Ecco, bravo, già questa mi è simpatico. Allora, peraltro abbiamo parlato prima dell'arrivo tanto atteso degli indennizi per i risparmiatori delle obbligazioni subordinate delle quattro banche coinvolte nella procedura di risoluzione varata dal governo nel novembre scorso, e allora dobbiamo riaprire una ferita per alcuni risparmiatori, ma per fortuna ne chiudiamo un'altra che è durata per ben 15 anni, perché si chiude finalmente dopo 15 anni per l'appunto la lunghissima battaglia legale, la controversia sui Tango Bond. Allora, preannunciato a febbraio, è stato definitivamente siglato l'accordo finale per i circa 50.000 italiani rappresentati dalla Task Force Argentina nel ricorso arbitrale al Tribunale Internazionale ICSID. 50.000 italiani ancora detentori di bond argentini in default dal 2001, che non avevano aderito alle offerte di concambio che erano state proposte, lo ricorderete, dal governo argentino nel 2005 e nel 2010, e a cui gran parte degli italiani, per chiudere definitivamente questa vicenda, avevano aderito. E allora i nuovi 50.000 che cosa devono fare a questo punto per naturalmente ottenere questo denaro, riottenere? Avete già ricevuto delle comunicazioni dalla vostra banca? Se siete fra i 50.000 interessati, adesso potete interagire con noi e col presidente della TFA Nicola Stock, chiamateci all'800 24 00 24. Allora, presidente, andiamo subito al sodo. Quello che le voglio chiedere: l'ultima volta che ci siamo sentiti in febbraio avevamo parlato di un accordo preliminare con il governo argentino, e forse non ci si credeva fino in fondo che si arrivasse alla parola conclusiva di questa vicenda. Quello che mancava in quel momento era la sigla del Parlamento, come dire, il via libera dal Parlamento argentino, e poi lei aveva annunciato appunto che sarebbero arrivati anche i soldi su un conto corrente di una istituzione finanziaria, praticamente, che poi sarebbero stati girati alle banche italiane per girarli a loro volta agli italiani detentori di queste obbligazioni. Una vicenda complessa. Stamattina, a che punto possiamo fare? Beh, dico subito che quello che è stato firmato l'accordo definitivo giovedì sera a New York, e quello che mi premeva è che naturalmente ci fossero sempre ripagamenti in contanti e soprattutto che avendo gli argentini emesso delle obbligazioni sul mercato internazionale per poi aumentato a 16,5 miliardi di dollari, che la parte che dovrebbero ricevere gli italiani fossero bloccati in attesa della definizione, sa c'è tutta una parte organizzativa da fare qui in Italia, ma che comunque i fondi ci fossero a disposizione sin da venerdì scorso. Che cosa devono fare adesso gli obbligazionisti? Ritengo che le banche entro la prima decade di maggio dovrebbero mandare delle lettere ai vari loro clienti per venire subito in banca a firmare questi moduli. Il subito significa che comunque si lascia un certo periodo di tempo perché ci potrebbe essere qualcuno che è assente o qualcuno che non sta bene, eccetera. Quindi daremo ancora un mese di tempo massimo per poter recarsi in banca e firmare. Perché, come dicevo anche in febbraio, noi riteniamo quei tempi che ci siamo dati che verso la fine di giugno questi gli importi potrebbero essere ripagati. Allora, parliamo di un importo di 1.350 milioni di euro, circa 900 milioni di dollari. Adesso andiamo ancora più nel dettaglio su quanto deve essere risarcito a questi 50.000 italiani, ma ne parliamo subito dopo il traffico. Cuore e denari. Sarà probabilmente una delle ultime puntate che dedicheremo a questa vicenda durata per ben 15 anni. Finalmente 50.000 italiani rappresentati dalla Task Force argentina si vedranno rimborsare il loro investimento effettuato nei bond argentini appunto prima del 2001. Adesso il governo risarcisce per 1.350 milioni di euro 50.000 italiani dei 450.000 che all'epoca avevano sottoscritto titoli argentini per ben 14 miliardi. Con noi stamattina per le tecnicalità di questo rimborso, firma finale settimana scorsa a New York, Nicola Stock, presidente della Task Force Argentina. Allora, presidente, il denaro destinato a questo rimborso è già depositato su un conto bloccato presso un'importante istituzione finanziaria. Adesso i diretti interessati dovranno aspettare delle comunicazioni dirette da parte delle banche. So che lei ha invitato più volte appunto i risparmiatori a fare attenzione alle prossime comunicazioni che arriveranno. Sarà il caso, secondo lei, anche di attivarsi direttamente? No, direi di no, perché ebbene lei comprende, c'è una grossa organizzazione delle varie banche per le piccole casse rurali che sono in montagna, eccetera. Quindi direi che dopo il 10 maggio queste comunicazioni dovrebbero arrivare a tutti. Se per un errore o per qualche termine che si sta perdendo, dopo quella data, dopo il 15 maggio, io direi che si possono anche recare in banca, certo. Però io direi di attendere per non creare confusione. Si darà comunque, come dicevo, un mese di tempo e la cosa essenziale, che bene ripeterlo, è il 150% esatto del valore nominale dell'obbligazione, quindi chi aveva investito 100 riceverà 150 in contante e immediatamente dalla propria banca. Cioè, perché banca... presidente, 150? Viene contemplato anche un indennizzo per la disavventura? Sì, c'è un interesse che può essere calcolato, chi dice 0,80 perché toglie naturalmente tutto un periodo di possibile ritardi, eccetera, però diciamo che c'è un siccome non è praticamente un risarcimento del capitale investito, quindi 100 il valore nominale, 50% abbiamo cercato di avere al massimo dall'Argentina, quindi certo, è un 150% in contanti. So che è stato sollevato, presidente Stock, anche un problema di tassazione. Che aliquota va applicata a queste somme? Come vanno considerate dal punto di vista fiscale, visto che si tratta di risarcimento a seguito di una transazione che è stata anche particolarmente, come dire, sì, complicata e conflittuale? Sì, io ho cercato di avere dei rapporti con all'azienda, ma direi che il nostro compito era di portare il denaro in Italia. Altro è quello che l'azienda tributaria cercherà di fare. Noi li abbiamo un po' sentiti. L'azienda tributaria intende il Ministero del Tesoro? Ministero del Tesoro, soprattutto. soprattutto Ministro Padoan, diciamo, titolare dell'azienda. Delle entrate, insomma. Ecco. Comunque è una cosa molto, diciamo, molto sensibile, come puoi immaginare, con l'Italia attualmente alla ricerca di introiti suppletivi, ma io credo noi abbiamo fatto il nostro dovere di informare, di cercare di ottenere qualcosa, però questa è una cosa molto sensibile che lascerei adesso all'Agenzia delle Entrate. Perché non vorrei che le banche ritardassero anche di fare le comunicazioni ai clienti e agli obbligazionisti proprio in attesa di capire che regime fiscale verrà applicato. Spero proprio di no, che riusciamo a che le banche abbiano una risposta, diciamo, in tempi scritti. Certo. Allora, adesso abbiamo, Presidente, una domanda di Anna da Roma. Le volevo però chiedere qualcosina in più rispetto a questi 50.000 che verranno risarciti. Abbiamo capito che sono tutti coloro che hanno continuato a seguirla nella battaglia con il Tribunale Internazionale ICSID e non sono i risparmiatori che hanno aderito ai concambi del 2005-2010 molto penalizzanti che erano stati proposti e offerti dal governo argentino. Intanto per quelle persone lì partita chiusa, non possono rivendicare alcunché. No, chi è entrato al 2005-2010 ha praticamente, prima di tutto, sottoscritto che non faranno causa all'Argentina, poi che si accontentano normalmente degli interessi che l'Argentina in quel momento offriva e, diciamo, la scadenza che mi pare, se non vado errato, era il 2038. Sì. Ora questi dal 2014 non hanno più ricevuto cedole perché c'è stato appunto il blocco presso il Tribunale di New York, però ritengo, una volta che l'Argentina ha ripagato gli hedge funds e noi, continueranno però a ripagare le cedole di questi. Però ecco, il fatto che voi abbiate ottenuto come ICSID, come TFA, il rimborso totale del miliardo e 350 milioni di euro non apre nuove possibilità per coloro che hanno aderito alle iniziative del governo argentino in passato. Senta, le faccio sentire, prima di salutarla, Anna da Roma, che ringraziamo. Anna, benvenuta. Buongiorno a tutti e un saluto al Presidente. Sì. Buongiorno, allora, buongiorno, la mia domanda era questa. Io nel 2005 ho sottoscritto tramite la mia banca una obbligazione argentina, ma in marchi. Quindi non è che lei non è lei. Passport. No, ma mi scusi Anna, se lei le ha sottoscritto l'investimento nel 2005, non era una delle persone che erano, come dire, cadute nel default precedente, un investimento? Sì, no, mi scusi, l'investimento l'ho fatto in precedenza, non nel 2005, però il problema è che era in marchi. Sì, allora, quindi nel 2005 cosa ha fatto, mi scusi? No, nel 2000, l'investimento è sicuramente antecedente al 2005. E ovviamente ho avuto i problemi che hanno avuto tutti, diciamo. Quando il governo argentino ha proposto una restituzione parziale dell'investimento secondo certe condizioni, lei aveva aderito quella volta ai concambi del governo o no? No, io non ho aderito. Quindi ritrovo ancora in portafoglio questo titolo, ma in marchi. Presidente Stocca, abbiamo solo un minuto di tempo. È presumibile che Anna sia nel gruppo dei 50.000? Io possiamo andare a controllare, però la signora Anna dovrebbe sapere lei stessa se ha aderito all'ICSID o meno a questa, perché se ha aderito i marchi sono poi conteggiati in euro come cambio ufficiale. Quindi è possibile, esatto. Anna, lei che si ricordi ha aderito alla Task Force Argentina? Io ho aderito, ma in parte, nel senso un altro investimento che avevo fatto, ma in lire al tempo, quello mi sarà rimborsato. Invece mi hanno detto in banca che questo i marchi probabilmente non, non sarà. Facciamo una cosa, Anna, guardi, segni questo indirizzo, cuoredenari@radio24.it, ci scriva qualche dettaglio in più, magari il codice ISIN probabilmente dell'obbligazione, la giriamo al presidente Stock e facciamo un controllo. Esatto, esatto, la TFA. Presidente, 30 secondi di tempo, le ultime raccomandazioni da rilasciare ai nostri ascoltatori? Ecco, di recarsi dopo il 15 maggio assolutamente nelle banche, oppure appena ricevuto l'avviso, perché se non avessero cura di recarsi dopo un mese scade il termine e purtroppo sono fuori da questa nostra iniziativa, esatto, di recupero. E visto che è durata tanto questa battaglia, direi, Nicoletta, di non fare proprio l'errore di perdere questa occasione, che no, è l'ultimo treno, poi non ce ne sono più, mi raccomando. Grazie presidente Stock, grazie, buona giornata. GR, poi di nuovo insieme parliamo di chi vuole continuare a vederci lungo. Unico, inimitabile programma di attualità ottimista. Siamo sicuri di farcela? Sicurissimi. Allora che la forza sia con noi. Si può fare con Alessio Maurizi e Carlo Gabardini. Il sabato alle 7.30 e la domenica alle 8.30. Su Radio 24. Cuore e denari. Poi visto gli occhi tuoi. Come abbiamo sentito prima nella vicenda dei Tango Bond, 50.000 italiani sono stati molto pazienti, Deborah. Tanto. E ci hanno visto lungo. Esatto. Perché qualche volta scoraggiandosi anche un po', però effettivamente comunque sono stati premiati. Loro non hanno accettato nel corso di questi anni le offerte del governo argentino e adesso ricevono la buona notizia di un rimborso dei loro risparmi. Mica male, no? Allora, a proposito di vederci lungo, ora parliamo di vista, in particolare di un disturbo visivo, l'astigmatismo, a cui è dedicato, pensate, un convegno a Milano. Molto spesso, tra l'altro, chi è astigmatico se ne accorge per caso, no? Dopo una visita oculistica, da qui l'invito a sottoporsi a controlli anche in assenza di sintomi. In ogni caso, esiste una sorta di autotest basato su una specie di stella che consente di capire se possa essere presente un astigmatismo. Naturalmente non sostituisce la visita oculistica, ma noi abbiamo pensato sulla nostra pagina di mettere un link al sito dell'Agenzia Internazionale Prevenzione della Cecità, dove potete trovare questo test. Intanto restate, perché questo difetto visivo si può prevenire, nel caso correggere, e se siete presbiti, attenzione, ci sono buone notizie anche per noi. Ce le porta in diretta da un convegno che raduna il gota dell'oculistica il professor Paolo Vinciguerra, che è direttore di Humanitas Centro Oculistico e docente di Humanitas University. Grazie professore, bentornato. Buona giornata a tutti. Professore, noi parliamo di un disturbo frequente, i numeri sono alti, si stima infatti che tra le persone con un difetto visivo quasi la metà sia astigmatica. Un difetto molto fastidioso e limitante, perché si può manifestare con una riduzione della capacità visiva sia nella visione per lontano che per vicino, e che ha una serie di sintomi con cui si presenta, altrettanto fastidiosi, anche se comuni: stanchezza visiva, mal di testa, bruciore agli occhi, lacrimazione. Un difetto che si può correggere, ma addirittura prevenire, e nel convegno presentate proprio un decalogo che, esatto, parla della prevenzione di questo disturbo. Ma iniziamo dall'ABC. Astigmatismo, un disturbo molto diffuso, quali sono le cause? Ma la causa è che la principale, che la forma della cornea, che è la nostra lente dell'occhio, la parte trasparente che copre l'iride, quindi quando noi vediamo un bell'occhio al colore non vediamo quello che c'è davanti, che è una parte trasparente, che ha una forma, al posto che avere una forma di un pallone da calcio, cioè una sfera perfetta, c'ha più la forma di un pallone da rugby, in cui uno dei due meridiani è un po' più curvo. Al di là di tutta questa complessità della spiegazione, che capisco che non è tanto digeribile, però io direi che la cosa più importante è due cose. La prima è la diffusione, che prende certamente una parte molto vasta, e poi, come spesso capita, che noi non ci accorgiamo se non marginalmente dei sintomi. Voi pensate che in Europa si pensa, da uno studio del della Comunità Europea pubblicato sull'European Journal che il 24% degli individui ha un astigmatismo. Quindi non è che parliamo di qualcosa di limitato, cioè c'era uno su quattro. E che noi spesso ci accorgiamo di questo, sui giovani per esempio, indirettamente, è gente che fa fatica ad andare a scuola, fa fatica a leggere, o nell'adulto che dice quando leggo un libro vado a capo due righe dopo, una riga dopo, perché questo difetto di vista non gli consente di vedere altrettanto bene per esempio linee verticali e quelle orizzontali, quindi quando è ora di andare a capo non si orienta. Quindi sono handicap di cui uno non si accorge se non indirettamente. Perché? Perché l'occhio può mettere a fuoco prima una porzione dell'immagine e poi l'altra, poiché l'astigmatismo influenza, come dicevamo prima, o la linea verticale o quella orizzontale. Ma certo, io andando a fuoco prima su uno, poi sull'altro me la ricostruisco, quindi sono lento. Quindi voi pensate a uno scolaro che va da scuola e che ogni cosa che guarda deve mettere prima due fuochi, poi elaborarla, rimettere insieme l'immagine e poi finalmente capirla. Una bella fatica, è lento, vedi, magari ero astigmatica, Deborah. Magari sembra tardo, sembra poco intelligente. Sembra tardo, invece è astigmatico. E invece sta facendo un gran lavoro. Professor Vinci Guerra, nel convegno che ho sottolineato, no, riunirà gli oculisti, i migliori oculisti che arrivano un po' da tutto il mondo, sì, parlerete anche di prevenzione, anzi stilerete un decalogo che naturalmente poi noi racconteremo e linkeremo sulla nostra pagina, ma di cui lei ci può dare un'anticipazione perché l'astigmatismo si può prevenire. Poi parleremo dell'altra novità di questa tecnica sperimentale per correggere la presbiopia. Professor Vinci Guerra. Allora, parliamo subito di quello che delle regole d'oro, sono cose semplici. Intanto parliamo di come deve essere illuminazione ambiente, di come posizionare, vi faccio una sintesi, di come posizionare poi tutti i dispositivi elettronici con cui noi abbiamo a che fare molto, molto frequentemente, fare delle pause, tutto questo e usare la correzione appropriata. Tutte queste che poi sono elencate con calma, poi ci sono anche dei test che uno si fa su questa app che abbiamo fatto sia per smartphone, sia Android che Apple. Questo hai serve. Vista? Sì, certo, ne avevamo sì, parlato, abbiamo però anche un'intervista. Continua a essere implementata. Sì. Ma lo scopo è un pochettino questo, fare rendere conto di quanto l'interazione possa influenzare l'andamento dell'astigmatismo. Facciamo un esempio semplice: se io sto sempre con gli occhi strizzati perché non ci vedo bene, esercito una pressione asimmetrica sull'occhio, cioè le palpebre sopra e sotto schiacciano, quindi aumentano l'astigmatismo. Quindi vedete come da una cattiva abitudine mi posso trovare a indurre un astigmatismo, anche se non ce l'ho, magari sono solo presbite, però strizzo pure gli occhi e quindi da presbite divento pure astigmatico. Quindi conoscere queste regole, non affaticare, poi ci sono, affronteremo un argomento nuovo, l'astigmatismo d'occhio secco, di cui non si parla mai. Ma che ne parliamo noi a Cuore Denari con lei, in anticipo. Perché in sostanza se l'occhio che è sottoposto a un'attenzione prolungata, cioè io guardo a lungo qualcosa, quindi non ammico, non apro e chiudo gli occhi, quindi le lacrime non vengono ridistribuite, l'occhio si asciuga, io comincio a vedere male perché la superficie non è più regolare. Poi certo, ci sono quelli che hanno anche l'occhio secco per patologia e sono convinti di avere un handicap visivo, in effetti hanno bisogno solo di una terapia. Quindi stiamo affrontando, poi ci sono gli astigmatismi che vengono dal cristallino, delle cataratte che iniziano, che noi oggi osserviamo molto prima come età di quanto si osservasse anni fa. Anni fa le vedevamo negli ottantenni, oggi cominciamo a vederle frequentemente anche nei cinquantenni. E a volte il primo segno è un astigmatismo che non c'era mai stato. Ora, l'astigmatismo è congenito, se uno ce l'ha dalla nascita. Quelli che sorgono dopo sono o da questi vizi che noi cerchiamo di compensare, aiutare a prevenire col nostro, certo, decalogo, oppure da patologie che insorgono per altri nel corso della nostra vita. Che sono correggibili, però la notizia buona è che si possono correggere astigmatismi, sia con laser, sia con gli interventi sul cristallino, cioè sono tutte cose, sia con gli occhiali che con le lenti, cioè è un problema che si può risolvere. Professor Vinci Guerra, si parte sempre dall'informazione. Esatto. Quando uno lo sa si adegua e soprattutto noi cerchiamo con il vostro aiuto di aggiornare i nostri ascoltatori, a cui vogliamo dare la parola perché c'è Giuseppe da Taranto, prima di parlare di questa nuova tecnica in sperimentazione di stimolazione elettrica per correggere la presbiopia, che in realtà non sarebbe un difetto visivo, non perché io sono presbite, ma è qualcosa di invecchiamento, sono gli anni, un regalo degli anni, come le rughe nella sulla pelle. Giuseppe, buongiorno da Taranto. Buongiorno Nicoletta. Buongiorno a lei, benvenuto. Vada con la sua domanda. Sì, buongiorno al professor Vinci Guerra. La mia domanda riguarda la mia nipotina di 12 anni, alla quale attraverso i controlli oculistici di routine sin dal 4 anni è stato riscontrato un astigmatismo all'occhio sinistro di 3.5 diottrie, penso che sia il termine. Inizialmente anche scambiato come occhio pigro, ma poi ripetute altre visite si è arrivati, che stiamo dicendo proprio, che ecco, molto si è arrivati ad una diagnosi. Che, sì, esattamente. La domanda, sì, immagino, di Giuseppe da Taranto, come si corregge? Viene corretto totalmente attraverso l'uso della lente. La mia domanda è questa: è stato detto che compiuti 20 anni attraverso un intervento chirurgico il problema può essere eliminato. Professore, lei mi conferma o devo Bravo, queste domande mi piacciono, che mirano subito al sodo. Professor Vinci Guerra? Diamo subito una risposta sintetica. Questi difetti, sta parlando di un astigmatismo di un giovane, dove senza poterla visitare naturalmente, certo, ma presumibilmente è un astigmatismo d'origine corneale. Questi astigmatismi vanno seguiti perché a volte possono occultare delle patologie della cornea che vanno riconosciute per tempo. A raggiunta la stabilità dell'evoluzione, dell'accrescimento dell'occhio, si possono correggere con laser se sono idonei. Teniamo conto che il 30% dei pazienti non lo è, alla correzione chirurgica con il laser e bisogna ricorrere ad altri sistemi. Quindi la correzione è possibile in quasi tutti i pazienti, salvo rari casi, ma la cosa essenziale è che ci sia l'idoneità. Cioè noi non dobbiamo avere fretta di correggere chi non lo è, perché potremmo farne un danno. Professor Vinci Guerra, chiudiamo con una buona notizia per i presbiti, che potranno gettare prossimamente, forse con leggerezza, gli occhiali alle ortiche, anche se in realtà, come abbiamo detto, la presbiopia non è un difetto visivo. Si parla di una tecnica in sperimentazione di stimolazione elettrica. Ne parlerete al convegno? Ci dà un'anticipazione? Cioè, in sostanza, per una categoria specifica di pazienti, cioè quelli che vanno dai 40 ai 50 anni, in cui abbiamo un irrigidimento del cristallino e un'incapacità del muscolo di consentire una messa a fuoco corretta, possiamo, con una rieducazione che viene fatta con una stimolazione elettrica, come si fa un po' la ginnastica passiva, possiamo aiutare questi pazienti a ripristinare, temporaneamente si intende, la loro capacità visiva da vicino. Quindi questa è un'altra delle cose che presenteremo e che potrà avere, anche perché non è una cosa invasiva, non fa correre dei rischi ai pazienti, quindi ha questo vantaggio. Professor Vinci Guerra, quando sarà disponibile? Possiamo parlare anche di tempi? No, lo è già. Lo è già, bisogna vedere se il paziente è idoneo, come dicevamo prima, sempre. Certo. Badare a non far correre rischi inutili ai pazienti e poi a quel punto si può pensare a. Però ci devono essere le condizioni, l'età, che non ci siano altre patologie e così via. Professore, la presbiopia non si può prevenire, vero? Ci scrive un ascoltatore, perché Di morire giovani. Vero. Allora, Giancarlo, buongiorno da Salerno, benvenuto, meglio essere presbiti. Giancarlo, buongiorno. Buongiorno, sì, la mia domanda era questa, che da quando mi si è avvicinati 47 anni ho avuto un calo nella vita. È un'età cruciale, mi sento di condividere con lei queste osservazioni. Giancarlo, festeggi. È un arresto, diciamo, ad un certo punto, perché negli anni si è aumentato sempre di più poi la gradazione. Forse le braccia diventano corte, professor Vinci Guerra? Non è confortevole, anche avessimo delle braccia di lunghezza infinita non sarebbe così comodo. Professore, quindi il caso di Giancarlo descrive bene, no? Col passare degli anni, sì, a un certo punto si verifica questa trasformazione e quindi diventiamo presbiti. Professore, prima di salutarle, il convegno è anche un'occasione per fare il punto sulle nuove frontiere di diagnosi e cura. Quali sono le novità disponibili nell'immediato o a brevissimo, quelle che segneranno probabilmente una svolta? Ma io direi due linee di conduzione. Intanto le diagnostiche che diventano sempre più precise e sempre meno invasive, cioè non c'è contatto col paziente, sono diagnostiche per immagini, il paziente guarda un punto e noi da quello presenteremo per esempio un nuovo sistema che con un soffio d'aria sulla superficie dell'occhio riesce a diagnosticare una quantità notevole di patologie. Con uno studio che è nato proprio qui in Humanitas, con un soffio d'aria vengono fatti durante l'esame 4.000 fotogrammi al secondo di come si comporta la cornea sotto questa pressione. Ma è straordinario, basta un soffio. E da l'analisi di tutti questi fotogrammi possiamo fare diagnosi. E poi la chirurgia che diventa anche qui sempre meno invasiva, sempre più rispettosa della condizione fisiologica. Oggi correggiamo la miopia al punto tale con i nostri laser che per un esperto che non abbia le diagnostiche più sofisticate è impossibile sapere se è mai stato operato. Lo abbiamo presentato di recente a Boston e i più grandi esperti presentavano questi casi prima e dopo e non sapevano rimanevano dire come si dice con un tanto d'occhi, professor Vinciguerra? Non sapevano dire chi era operato e chi no, quindi straordinario. Professore, grazie e buon convegno. Per grazie. Tutti gli approfondimenti trovate naturalmente indicazioni sulla pagina di Cuore Denaro. Grazie professor Vinciguerra, buon giornata. Lavoro, buona ricerca. Allora, mi riprendo il testimone, un soffio, sì, esatto, infatti come magari vorremmo che così potessero scomparire solo con un soffio tutti i problemi del lavoro nel nostro paese, Nicoletta. Lì ci vuole altro che un soffio, ci vuole veramente una fatta soffiata. Fatta turchina, ecco. Esatto. Allora, e di lavoro parliamo adesso nel nostro prossimo approfondimento. Precario il mondo, flessibile la terra che sto ti do qualche cifra, Nicoletta, senti un po' se ritieni questi numeri interessanti. Allora, nel 2015 1,5 milioni di persone, di lavoratori, sono state pagate con i voucher, per metà donne e per un terzo giovani. Nel 2015 sempre sono stati distribuiti, utilizzati 115 milioni di voucher, c'è stata una crescita del 66% sul 2014, del 182% sul 2013, con picchi di utilizzo nel sud e nelle isole. Non sappiamo ancora quanti di questi boni abbiano già avuto una richiesta di rimborso da parte dell'INPS perché manca un meccanismo di tracciabilità affidabile e certificato, e questo è il grande problema che è stato sollevato in questi ultimi mesi proprio perché c'è questo boom di utilizzo da parte di molte aziende dei voucher lavoro per retribuire appunto i lavoratori, e allora ci si comincia un po' a chiedere: non sarà un fenomeno da cominciare a ridimensionare, riorganizzare? Perché in molti sostengono che nell'utilizzo appunto dei voucher in maniera così prepotente e evidente nasconda forme di economia sommersa. Questa mattina su questo argomento segnaliamo anche sul quotidiano La Repubblica l'intervista a Filippo Taddei, responsabile economico del PD, che dice: i voucher sconfiggono il nero, per cui dobbiamo andare avanti con iniziative di tracciabilità per evitare gli abusi, sconfiggere gli abusi. E allora facciamo un po' un punto della situazione su che cosa dovrebbe cambiare con la tracciabilità, se ci sono i margini per introdurre anche un meccanismo appunto di tracciabilità dell'utilizzo dei voucher, e ne parliamo con il nostro consulente del lavoro preferito, che è Alessandro Taporta, che salutiamo, buongiorno. Benvenuto. Buongiorno, grazie a voi e buongiorno a tutti gli ascoltatori. Ascoltatori ai quali chiedo, se vogliono, di raccontarci se negli ultimi mesi hanno lavorato e siete stati pagati con questa modalità, che tipo di prestazione professionale avete sostenuto, come era organizzata la vostra giornata di lavoro e insomma ritenete che il voucher sia stato lo strumento giusto per remunerarvi, ritenete che sia stato utilizzato anche in maniera corretta dall'azienda che vi ha proposto questo tipo di remunerazione. 800 di retribuzione, 800 24 0024, il numero appunto per interagire con noi. Allora, dottor Rotaporta, il tema all'ordine del giorno è la tracciabilità. In che cosa dovrebbe consistere questo meccanismo per seguire un po' il percorso che fa il voucher dal datore di lavoro appunto che paga con questa modalità fino a quando non arriva appunto al lavoratore? Allora, oggi, quindi partiamo con l'inquadrare come avviene oggi questo tipo di prestazioni. Oggi il, diciamo, chi acquista i voucher va sostanzialmente a registrare questo acquisto sul, tramite i servizi dell'INPS, quindi canale principale quello telematico, e praticamente questi voucher, secondo le indicazioni che sono state fornite nel tempo dal Ministero del Lavoro e dall'INPS, vanno consumati in un arco temporale di 30 giorni, quindi c'è un sistema di tracciabilità che, se vogliamo, è molto generico, perché ad esempio se un committente prende e compra 10 voucher, praticamente oggi li può attivare con, come dicevo prima, e nei prossimi 30 giorni può spenderli come vuole. Questo sicuramente è una metodologia che può prestare il fianco ad abusi, perché poi si può prestare a quindi corresponsioni di maggiori ore rispetto a quelle che si possono pagare con quel singolo acquisto, in magari con prestazioni in nero. Quello che si vuol fare è invece creare un sistema di comunicazione dove il committente non solo deve andare a comunicare un arco temporale di utilizzo, ma in via preventiva deve proprio andare a tracciare le ore e quindi i giorni di prestazione che vengono effettuati attraverso il sistema dei voucher. Esatto, quindi più stringente. Esatto, il committente, appunto, per chi non avesse capito chi è in questo caso, è il datore di lavoro. Appunto, Filippo Taddei dice questa mattina: con il meccanismo di tracciabilità che vorremmo adottare si obbligherebbe il datore di lavoro a comunicare in anticipo con SMS o mail da quando e per quante ore si avvarrà della prestazione del lavoratore. Quindi un meccanismo, appunto, più trasparente. Che tipo di tutela c'è con la tracciabilità anche per il lavoratore, Rotaporta? Sicuramente la garanzia di ricevere attraverso i voucher il compenso esatto rispetto alle ore che va a prestare. Io mi permetto di fare un commento su questa vicenda. Qui c'è chi oggi grida allo scandalo, e per certi versi ha sicuramente ragione, perché comunque si presta a forme di precariato e di abuso, però ci dimentichiamo un po' troppo in fretta che il legislatore negli ultimi 2 anni e mezzo ha totalmente liberalizzato il lavoro tramite i voucher, che era nato 6-7 anni fa esclusivamente per attività, addirittura all'inizio, di carattere vendemmiale, quindi sì, agricole, raccolta dei pomodori e poco altro, poi esteso anche alla prestazione professionale dei collaboratori familiari, per cui in realtà si stanno molto estendendo, forse in maniera un po' esagerata, ma in realtà hanno regolarizzato molte posizioni di lavoro. Sì, ma poi parliamo di un sistema che è noto a tutti, tutti lo conoscono, ormai è di uso diffuso, quindi secondo me è giusto andare a creare dei meccanismi di maggior certezza della regolarità di queste prestazioni, però chi parla magari in modo poi un po' estremo di abolizione si dimentica di un percorso che è andato avanti per anni verso una totale liberalizzazione, quindi oggi frenarlo diventa sì, esatto, un po' complicato. Anacronistico. Allora, adesso ci fermiamo a Rotaporta perché abbiamo i mercati, però Nicoletta notava subito dopo molti messaggi. Sì, vi leggerò alcuni messaggi che arrivano via WhatsApp 349-238-6666 se volete intervenire. Esatto, ma non solo, volevo anche segnalare, chiedo ai ragazzi se ce lo pescano, c'è addirittura un sindaco che vorrebbe intervenire in diretta, perché pare che in un'amministrazione qua vicino a noi vengano utilizzati anche, appunto, i voucher nell'ambito pubblico, e cerchiamo di capire anche lì come funziona. Anche il sindaco è finito nella nostra rete. Siamo irresistibili come al solito. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Cuore e Denari. Sono precario, lo so, quello che posso darti amore ti darò. Eh sì, effettivamente, bella questa canzone, non avevo presentita prima della partenza della trasmissione. Allora, detto questo, sì, effettivamente molti ascoltatori stanno continuando a denunciare un uso distorto dei voucher come appunto forma di come dire precariato nel mondo del lavoro. A furia di parlarne come una nuova emergenza, ecco che si comincia a discutere sempre di più su come riorganizzare il sistema dei voucher lavoro. Ricordiamo, nel 2015 ne sono stati erogati il 66% in più rispetto all'anno precedente, un fenomeno che viene letto in maniera discordante. Per qualcuno continua anche attraverso la remunerazione con questa modalità l'emersione dal nero di molti lavoratori, per altri invece è sempre sfruttamento da parte di aziende che non vogliono stabilizzare i lavoratori e continuano a pagarli in questo modo, metà in questo modo, il resto in nero, no Nicoletta? Come ci segnala anche un ascoltatore, ecco, metà ti pagano col voucher, metà in nero. Tutti i camerieri, baristi e DJ lo sanno, ci scrive un ascoltatore. E questo è il motivo per cui si sta discutendo sulla tracciabilità appunto dei voucher, obbligando in qualche maniera i datori di lavoro che li utilizzano a chiarire sin dall'inizio del loro acquisto come verranno utilizzati, per quanto tempo e per quali lavoratori. 800 24 00 24, numero verde per le vostre domande. Ancora qualche minuto di tempo con Alessandro Rottaporta per commentare queste novità delle quali si sta discutendo, ma anche per commentare i casi concreti degli ascoltatori. Vanni da Bologna, benvenuto. Sì, ciao, buongiorno, buongiorno. Eccoci qua. Allora, io vi faccio un esempio di quello che sto vivendo. Io lavoro in alimentari. Dove, Vanni? A Bologna. Sì, a no, Bologna. Non ho capito in che settore, in che azienda. Alimentari. Alimentari. Un negozietto, sì, sì. Una bottega. E ormai sono 6 mesi, lavoro occasionalmente con i buoni voucher. E lavoro mediamente 8-9 ore al giorno e percepisco di voucher 2 buoni al giorno, in realtà, quindi dal valore di euro 15. E tutto il resto non si può dire, ma lo immaginiamo. Sottopagato, perché giustamente io ne ho bisogno, di anche la parte che non si può dire comunque è sottopagatissima. E quindi purtroppo insomma, ecco, sì. Tenga duro Vanni fino a quando non trova qualcosa di meglio, soprattutto un rapporto più trasparente con un altro datore di lavoro. Detto questo, no, mi stavo interrogando sul fatto che Vanni lavora per un unico negozio e quindi ha un unico committente, Alessandro Rottaporta. Allora bisogna anche fare chiarezza su quanti committenti possibili per uno stesso lavoratore, che tetto c'è anche nell'utilizzo dei voucher, nel percepire appunto una retribuzione con i voucher, perché anche qua i limiti sono molto precisi. Sì, allora, in capo al singolo prestatore, quindi il singolo soggetto, può totalizzare in ciascun anno, e per anno si intende anno civile, quindi 1 gennaio, 31 dicembre, un massimo di 7.000 euro, e questi 7.000 euro si intendono quindi diciamo netti, no? Quindi incassati dal lavoratore. Però il diciamo committente, che sia imprenditore o professionista, può erogare nei confronti di un singolo soggetto un massimo di 2.000, quindi in capo alla persona c'è il limite complessivo di 7.000, sì. Ma se io sono imprenditore o professionista posso corrispondere solo 2.000 euro, poi regole a parte per il settore agricolo, ma questo è il quadro generale della situazione. Che cosa suggeriamo a Vanni? In realtà lui non chiedeva neanche un suggerimento, voleva semplicemente segnalare la sua situazione, che probabilmente sarà simile a quella di molti altri lavoratori. Se un imprenditore, un datore di lavoro viene pizzicato a non comportarsi tanto correttamente con il sistema dei voucher, dottor Rottaporta, incorre in qualche meccanismo sanzionatorio? Ma sì, perché comunque, anzi, meccanismo sanzionatorio anche pesante, perché se io compro i voucher per un determinato periodo e poi magari sforo, quindi il lavoratore continua a effettuare prestazioni che non sono più coperte dai voucher, lì addirittura scattano sanzioni, cioè scatta la cosiddetta maxi sanzione per il lavoro nero, quindi si parla di sanzioni che possono anche arrivare ad importi molto elevati. Anche l'utilizzo non corretto comunque presta il fianco ad avere un inquadramento, certo, del lavoratore, come se fosse un normale dipendente, perché poi a quel punto lì la situazione descritta dall'ascoltatore è chiaramente in violazione del corretto utilizzo del buono. Senta, ammettendo che da domani il datore di lavoro di Vanni e di tutti i Vanni che ci stanno ascoltando voglia invece regolarizzare la posizione di questo suo collaboratore, qual è l'alternativa più vicina al voucher che possa mettere mettere in condizione appunto di sicurezza sia il lavoratore, ma anche in condizione di serenità il datore di lavoro, che magari, che ne so, ha business per un periodo limitato di tempo, quindi ha per forza bisogno di avere un rapporto di lavoro determinato con questa persona, comunque limitato, perché ma non gli allora può garantire più certezza. Le alternative ci sono, nel senso che se il rapporto è limitato nel tempo, allora si può ricorrere al contratto a termine. Se c'è anche, oltre al fatto di avere necessità di un apporto lavorativo per un determinato arco temporale, c'è anche la saltuarietà all'interno di questo arco temporale, allora si può ricorrere al contratto a chiamata. Ovviamente il contratto a chiamata non è un contratto che si può fare sempre, si può utilizzare sempre, ci sono delle casistiche anche lì che bisogna andare a riscontrare, però quello è un altro sistema che consente un utilizzo proprio, come dice il termine, intermittente, no? Quindi quando il datore di lavoro ha bisogno chiama il certo lavoratore, questo è stato tracciato con un sistema che anche qui all'inizio quando era stato disciplinato questo contratto non esisteva, e anche qui per prevenire, per arginare gli abusi è stato creato un sistema che si vuole anche ribaltare un po' in sostanza anche per i buoni lavoro. Quindi allora seguiremo, grazie ad Alessandro Ottaporta, con attenzione tutto il percorso della tracciabilità. Noi abbiamo risollevato il problema, oggi hanno certamente risolto molte questioni, molto precariato è stato anche emerso in realtà dal nero grazie all'utilizzo di questi buoni lavoro, in certi casi invece è stato rienfatizzato di nuovo questo problema. Riusciamo solo 30 secondi, voglio sentire certo questo sindaco, no Massimo, lei non è un sindaco, o sì, ho capito male, buongiorno. No, sono sindaco in provincia di Varese. Ah, di che paese, ce lo dica? Lonate Ceppino, 5.000 abitanti. Lonate Ceppino. Non lo conoscevamo, però la veniamo a trovare, Massimo. L'altra volta che non facevo pagare l'IMU, ci siamo sentiti forse 2 o 3 anni fa, non ho mai fatto pagare l'IMU sulla prima casa. Vabbè, non c'è problema. No, ci mancherebbe, grazie per avercelo ricordato, sa che noi siamo un po', guarda, siamo sempre sommersi di telefonate, no, ci fa piacere, non ci ricordiamo di tutti, ma adesso che me lo dice me lo ricordo. E quindi con i voucher cosa fa lei? Niente, praticamente soprattutto sia nell'ambito sociale che nell'ambito educativo. Faccio un esempio banale, il dopo scuola. Quest'anno, cioè da 3 anni faccio il dopo scuola per le famiglie al pomeriggio per i bambini elementari. Io se prendo una cooperativa mi costa 22-23 euro all'ora, e la ragazza, la neolaureata, comunque mi prende lo stesso gli 8-9 euro alla fine finali, no? Metti. Io con i voucher riesco a pagare la ragazza quasi in linea con i prezzi di mercato e fare 5 euro alla settimana a famiglia per il dopo scuola. Cioè riesco a risparmiare notevolmente sul costo del personale, che bene, poi riesco a riversare sulle tariffe. Sindaco, lei è un esempio eccezionale di spending review, la dovrei veramente mandare dal ministro Padoan a dare qualche lezione di riorganizzazione della spesa pubblica. Grazie molte Massimo per la sua testimonianza, adesso aspettiamo il terzo tema di denari in cui questo nostro sindaco interverrà, magari sui microbiotici potrà avere qualche... I probiotici, cosa ho detto? Sì. Comunque adesso noi facciamo così, dopo aver messo sotto la lente di ingrandimento i voucher, adesso occupiamoci del microbiota. Un tempo si parlava di microflora intestinale. Andiamo con una base? No, forse, ma io... sì? No? Allora intanto nell'ultima parte di questa trasmissione che dedichiamo al microbiota intestinale, un sistema complesso che io immagino come un vivaio ricco e rigoglioso, popolato da tante specie diverse. Infatti anche il microbiota è costituito da centinaia di specie batteriche. Alcune di queste sono molto preziose perché fanno una serie di cose, ad esempio stimolano il sistema immunitario, degradano determinate tossine, aiutano anche a produrre delle componenti vitaminiche, lavorano, lo sappiamo tutti, no? per regolare l'intestino. Per questo la ricerca non le perde d'occhio. E di questa comunità cerca di conoscere abitudini, gusti. Anche noi lo facciamo oggi e quindi vi invito ad intervenire se avete domande all'800 24 00 24, perché oggi con noi abbiamo uno dei massimi esperti mondiali di probiotica, che tra l'altro è recentemente stato segnalato come uno dei migliori 100 ricercatori italiani. In linea abbiamo il professor Lorenzo Morelli, da 7 anni preside della Facoltà di Agraria e di Scienze Alimentari e Ambientali dell'Università Cattolica di Piacenza. Buongiorno professor Morelli, bentornato. Buongiorno a tutti voi e grazie di avermi reinvitato. E adesso che allora i nostri ascoltatori sanno che lei è con noi, noi ci fermiamo, andiamo a sentire il traffico e poi è tutto nostro. Cuore e denari. Eccoci qua, siamo tornati insieme, ultima parte di Cuore Denari, mentre Deborah balla. 800 24 00 24, in linea con noi il professor Lorenzo Morelli. Professor Morelli, lei è stato così ribattezzato il nonno dei probiotici, è contento di questo appellativo? Ma nonno no, magari papà, sono anziano ma non così tanto, insomma. Beh, sono più di 30 anni che ci occupiamo di probiotici per gli uomini, per il genere umano. In realtà l'istituto a cui appartengo ha più di 60 anni di esperienza nell'uso dei probiotici a partire dagli allevamenti animali. E poi 30 anni fa la mia così idea è stata quella di trasferire queste conoscenze anche al microbiota umano. E di lì la svolta. Tra l'altro l'abbiamo anticipato, ma ormai del microbiota sentiamo sempre più spesso parlare. È un ecosistema complesso e la sua composizione ha delle ricadute molto importanti sulla funzionalità del nostro intestino, che è il famoso secondo cervello, no? E anche di riflesso sul complesso degli altri organi e apparati. Quindi abbiamo capito che è meglio tenerlo bene, mantenerlo in equilibrio, essere pronti a intercettare precocemente eventuali segnali di difficoltà. Ma professor Morelli, quali sono le caratteristiche di un microbiota in salute? Allora, il microbiota in salute è sostanzialmente sia il carburante che il lubrificante che fa andare il motore intestinale. Ed è estremamente importante, nel senso che ci aiuta a digerire, questo vabbè, è una delle funzioni classiche, certo. Ma in realtà parla con il sistema immunitario, perché l'intestino è il più grande organo immunitario che abbiamo, e parla anche con il cervello, perché l'intestino è il secondo cervello, come già ricordato, ha un numero di cellule del sistema nervoso che è secondo solo al cervello, quindi è un equilibrio delicatissimo, è una specie di mosaico, di puzzle, dove ogni tesserina deve essere al suo posto, altrimenti non si vede l'immagine totale, ecco. Professor Morelli, lei ha detto l'intestino parla al cervello e il cervello parla anche all'intestino, i due insomma chiacchierano, se le raccontano. Chiacchierano molto, chiacchierano molto, diciamo che fanno molti pettegolezzi avanti e indietro, e è importante perché vabbè, tutti noi sappiamo che quando siamo in momenti di stress, stress nervoso, abbiamo anche però poi delle ricadute intestinali, no? Certo. E però la sensazione di non benessere intestinale ci mette in una situazione di disagio psichico, quindi ci sono i due sensi, no? Non è una strada a un senso unico, e per cui tenerne conto è importante, insomma, estremamente importante. Professor Morelli, lei ha parlato di stress, no? Ci sono degli stress che mettono un po', no, in, a disagio il nostro microbiota, la comunicazione tra i due cervelli si infittisce, uno manda segnale all'altro, ma poi ci sono anche le malattie, i farmaci, una dieta particolare. Mi faccio un po' un elenco dei nemici del nostro microbiota e poi rapidamente passeremo agli amici, ai probiotici. Al primo allora, posto nella hit parade dei nemici del microbiota mettiamo... sono gli antibiotici, anche se sono legati dai trattamenti farmacologici, ma sono gli antibiotici, non sono sicuramente amici dell'equilibrio intestinale. Poi ci sono delle cose magari meno note, tipo il cambio di stagione, quello che sta avvenendo adesso, perché è legato a sbalzi di temperatura, ma anche a cambi di dieta. Il nostro microbiota è piuttosto conservatore, è abituato ad avere un certo tipo di dieta, introduciamo cose nuove, magari anche benefiche, però diciamo che ci sono... Lui si agita un po', insomma. Si agita un po', bisogna riequilibrare un po' le cose. Poi sicuramente uno stress di tipo psichico, essere sotto pressione, avere alti livelli di adrenalina, sicuramente non fa bene all'intestino. Poi ci sono dei momenti particolari della vita, nella vita delle donne, ad esempio la gravidanza è qualcosa che mette sotto pressione anche l'intestino, variazioni di età, non abbiamo lo stesso microbiota man mano che avanziamo nell'età, ci sono delle fasi, dal momento zero ai due anni, dai due anni fino ai 40-45, poi fino più o meno alla mia età, intorno ai 60, e poi ancora dopo gli 80, quindi anche la normale evoluzione anagrafica ci vede cambiare microbiota, e questo non sempre, non è senza conseguenze. Magari non è, oggi si parla molto ad esempio di una cosa estremamente interessante, che è l'inflammosoma, cioè le persone che invecchiano hanno uno squilibrio nel proprio microbiota intestinale che porta a un aumento dell'infiammazione dei tessuti intestinali, e quindi ad esempio delle nuove linee di ricerca li legano a fenomeni di tipo artrosico, di tipo infiammatorio sulle giunture, no? Cioè cose molto strane che uno così non penserebbe legate alla composizione del microbiota, eppure articoli degli ultimi 3-4 anni pubblicati su Nature, Science, quindi su riviste di altissimo livello, importanti. Molto importanti, stabiliscono queste relazioni, no? Un microbiota intestinale significa meno infiammazione degli epiteli e quindi ad esempio meno dolori, meno problemi anche alle articolazioni. Abbiamo citato in apertura il lavoro dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma, che ha dimostrato che i bambini obesi con fegato grasso hanno un microbiota particolare, diverso, più carente di alcune specie, e con altre invece che sono più presenti che non negli individui sani. Quindi la ricerca sta andando avanti, sono state dimostrate, immagino, o forse ancora insomma il filone della ricerca è lì, che sta cercando di produrre dei risultati, relazioni tra appunto anche la depressione, l'umore. Sì, ma allora la ricerca, diciamo, sull'obesità nasce nel 2006 da un grosso lavoro di un gruppo americano che ha dimostrato come nelle persone obese ci sia nettamente una composizione del microbiota diversa dalle persone magre, e queste persone obese sottoposte a dieta, man mano che calano di peso, riacquistano un microbiota più simile a quello delle persone magre. Da lì potete immaginarvi la quantità di studi che sono stati finanziati, poi sono arrivate appunto anche altri studi, altre linee. Ecco, bisogna sempre essere molto prudenti, perché certo, che ci sia questa differenza è fuori discussione. Cioè i dati scientifici accumulati a questo punto sono più che sufficienti a dire che c'è una differenza. Che questa sia una causa o un effetto, il famoso problema dell'uovo e della gallina, questo è qualcosa ancora da dimostrare, insomma, da verificare. Però sicuramente a livello diagnostico la composizione di due microbioti che mi arrivassero nel mio istituto da una persona obesa, da una persona magra con un indice di peso corporeo corretto, noi sapremo distinguerla sulla base della sola composizione dei batteri. Straordinario, una fotografia che, certo, una che fotografia. Vale più della bilancia. Professore, vale più della bilancia. Sì. È piaciuta, professore. Può succedere insomma che questo microbiota attraversi momenti di difficoltà. Lei ha fatto l'hit parade dei nemici, e allora può capitare a tutti, no? D'altronde avere, certo, periodi un po' difficili. Allora, per riportarla a stare bene, per ripristinare l'equilibrio qualitativo e quantitativo dei microorganismi che lo compongono, può essere utile consumare alimenti o bevande arricchite con fermenti probiotici. Che allora, non sono fermenti lattici. Ecco, infatti c'è questa, no, bisogna dirlo, bisogna sottolineare che i probiotici sono fermenti lattici, ma non tutti i fermenti lattici sono probiotici. Sembra un gioco di parole, sì, professor Morelli, ma in realtà la distinzione è sostanziale. Ce la spiega? La distinzione è sostanziale, perché i fermenti lattici sono una grandissima famiglia di batteri con cui facciamo i formaggi, i salumi e tante altre cose. Alcuni di questi hanno capacità probiotiche, cioè hanno la capacità di insediarsi nel nostro intestino e di fare bene, ma non tutti, e quindi la selezione dei batteri giusti è fondamentale. Allora, professore, è importante che i probiotici arrivino vivi e vitali nell'intestino per fare il loro lavoro. Ci dà in un minuto 3 indicazioni importanti che vanno dall'acquisto alla modalità di consumo? Allora, l'acquisto deve riportare, leggere l'etichetta fondamentale, non solo per i probiotici, per tutti gli alimenti, deve riportare 2 paroline latine che riguardano ad esempio il genere e la specie, Lactobacillus casei, Lactobacillus acidophilus, Bifidobacterium bifidum, ecco. Sì, 2 parole. Due parole latine. Se fosse possibile una terza indicazione, che può essere un nome, un numero, perché i probiotici in realtà hanno attività diverse a secondo dell'individuo batterico. Sì. Io penso che nessuno di noi si accontenterebbe di un prodotto che portasse l'etichetta contengo vitamine. Certo, vorrebbe quindi dovete guardare sull'etichetta i due nomi latini, più possibilmente un terzo nome. Come si assumono? A digiuno o a stomaco pieno? Professore, allora, abbiamo 10 secondi. È stato dimostrato che è meglio a stomaco vuoto, perché passano più velocemente. A stomaco vuoto, torneremo a parlarne col professor Morelli per rispondere a tutte le vostre domande. Professore, grazie per essere stato con noi, buonissima grazie. Giornata. Ci sentiamo già meglio. Grazie a voi. Grazie a voi. E noi, se ci sentiamo meglio, possiamo tornare domani. Ah, guarda, molto volentieri. Alle 10:30. Andiamo a lavorare un po'. Buona giornata a tutti.